Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sono le 21 e quasi 3 minuti a Radio 24, anche per questa sera sarò io, Marta Cagnola, a tenervi compagnia per Effetto Notte, per questa sera, per domani sera, poi non temete, tornerà Roberta Giordano come d'abitudine a Effetto Notte, dalle 21 alle 22 tutte le sere, ma soprattutto in compagnia delle notizie della redazione di GR24, di tutti gli approfondimenti, staremo insieme per tutta la prossima ora, davvero con tanti aggiornamenti, tante notizie, ma questi sono i titoli principali dell'edizione e della serata. Allora, l'incontro Tillerson-Lavrov, rapporti Stati Uniti-Russia ai minimi, Trump accusa Putin, sostiene il diavolo. L'attacco all'autobus del Borussia Dortmund è terrorismo, dicono gli investigatori tedeschi, arrestato un 25enne iracheno presunto islamista. Riforme fiscali, il governo punta sul taglio del cuneo fiscale, sparisce la riduzione dell'IRPEF. Di Maio, 40% dei criminali romeni importati in Italia, ambasciate e associazioni contro di lui. Allora, il presidente americano Donald Trump ha alzato i toni sulla Siria definendo Assad un animale e accusando Putin di sostenere una persona diabolica. Replica del presidente russo: i rapporti Russia-Stati Uniti sono peggiorati da quando è stato eletto Trump. Il tutto mentre il segretario di Stato americano Tillerson ha incontrato a Mosca il ministro degli esteri russo Lavrov. Poco fa la conferenza stampa dei due. Allora, alcuni dei contenuti di questa conferenza stampa che abbiamo seguito proprio negli scorsi minuti. La Russia è aperta non solo al dialogo con gli Stati Uniti, ma anche ad azioni comuni. Sono sicuro che le ore passate oggi con Rex Tillerson, ha detto Sergei Lavrov, anche in compagnia del presidente Putin, non sono state spese invano. Da oggi ci capiamo meglio, ha aggiunto. Le distanze non sono insuperabili con gli Stati Uniti, ha aggiunto poi Lavrov. Siamo in disaccordo sull'uso delle armi chimiche da parte del regime siriano. Su questo punto serve un'indagine internazionale. Sentiamo invece quello che ha detto il segretario di Stato americano Rex Tillerson. Le relazioni tra Stati Uniti e Russia sono a un punto basso, caratterizzato da un basso livello di fiducia. Tillerson ha accusato il regime siriano di Assad di aver usato bombe al cloro e altre armi chimiche in oltre 50 occasioni. Bashar al-Assad, ha aggiunto Tillerson, non può assolutamente governare la Siria, la sua rimozione dal potere deve avvenire in modo strutturato e organizzato. E Lavrov ha specificato, in Siria la Russia non punta né su Assad né su chiunque altro. Di questo argomento torneremo a parlare tra non molto con un approfondimento nel corso del nostro Effetto Notte. Ancora dagli esteri, l'attacco all'autobus del Borussia Dortmund è terrorismo, lo dicono gli investigatori tedeschi, secondo i quali tuttavia il motivo esatto resta incerto. La polizia ha arrestato un iracheno di 25 anni. Terrorismo. Gli inquirenti tedeschi non sembrano avere più dubbi sulla matrice dell'attacco contro l'autobus del Borussia Dortmund. Più nebulose le ragioni. Il motivo resta incerto, ha precisato la procura federale, secondo cui gli ordigni esplosi a Dortmund vicino all'autobus del Borussia contenevano punte metalliche. Una di queste si è conficcata nel poggiatesta di uno dei sedili del bus. Per questo possiamo dire per fortuna che non è successo nulla di più grave, ha affermato la procura. Gli ordigni avevano una capacità esplosiva di oltre 100 metri. Secondo il quotidiano Bild Zeitung, le tre esplosioni che hanno ferito il difensore Bartra e un poliziotto di scorta sono state azionate a distanza in modo simultaneo. Questi dettagli, nota il giornale, fanno pensare a un'azione molto professionale e ben pianificata. La cancelliera Angela Merkel ha condannato l'attacco definendolo un atto ripugnante. La Merkel, che ha telefonato ai dirigenti del club esprimendo loro il suo personale sostegno, si è detta sgomenta come milioni di persone per quanto accaduto. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La partita rinviata ieri si è poi giocata questa sera, protagonista assoluto il 19enne Mbappé, il Monaco batte il Borussia Dortmund, ancora frastornato dalle notizie di ieri per 3-2. Questa sera con Dario Ricci tutti gli aggiornamenti anche sulle gare di andata dei quarti di finale tra Bayern Monaco e Real Madrid e Atletico Madrid, Lesta. Conti pubblici, dal DF sparisce il taglio dell'IRPEF, ma resta la riduzione del cuneo fiscale, 10 miliardi per le banche in crisi. La riduzione dell'IRPEF non trova posto nel nuovo piano delle riforme del governo, previsto invece dal programma di Matteo Renzi. Resta però cruciale tagliare il cuneo fiscale per ridurre il costo del lavoro e aumentare così il reddito disponibile dei lavoratori. È quanto emerge dal documento programmatico di economia e finanza approvato ieri dal Consiglio dei Ministri e pubblicato oggi dal Ministero dell'Economia. Novità anche per le banche. Ammonta 10 miliardi di euro la somma che l'esecutivo ha in programma di utilizzare per la ricapitalizzazione degli istituti di credito in crisi. Il DEF sembra in linea con l'Europa. Gli sforzi del governo italiano, dice il presidente della Commissione Juncker, vanno nella direzione giusta, ma servirà un risanamento deciso. Critiche arrivano dalla CGIL, che trova il DEF fumoso sui rinnovi contrattuali della pubblica amministrazione e chiede a Padoan chiarimenti. Bene invece la correzione dei conti pubblici da 3,4 miliardi, dice il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. È evidente che è una manovrina, non avevamo aspettative alte, mi sembra, come dire, su una buona direzione, adesso la valutiamo punto per punto. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Polemiche per un post pubblicato su Facebook il 10 aprile dal vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. L'Italia ha importato dalla Romania il 40% dei loro criminali, mentre la Romania sta importando dall'Italia le nostre imprese e i nostri capitali. Sdegnata la reazione della comunità romena in Italia, Di Maio sottolinea che il suo intento non era quello di offendere i romeni, anzi impariamo dai romeni, scoraggiano i delinquenti e attirano le imprese, ha provato a spiegare. Ma ne parleremo durante questa puntata di Effetto Notte. E legge il decreto sull'immigrazione firmato dai ministri Minniti e Orlando, oggi il via libera definitivo della Camera. Sentiamo quali sono i principali contenuti. Contrastare l'immigrazione clandestina e ridurre i tempi per l'esame delle domande di asilo, punta a questo il decreto sull'immigrazione approvato stamattina dall'Aula di Montecitorio. Principale novità è la nascita dei centri di permanenza per il rimpatrio. Prenderanno il posto dei vecchi CIE, potranno ospitare al massimo 1.600 persone e saranno creati in ogni regione, preferibilmente fuori dai centri urbani. Per garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione verranno stanziati 19 milioni di euro. Per accorciare i tempi di esame delle richieste di asilo è prevista invece l'assunzione straordinaria di 250 specialisti e l'istituzione di sezioni specializzate nei tribunali. In caso di bocciatura delle domande non si potrà più ricorrere in appello ma solo in Cassazione. I richiedenti asilo infine potranno essere anche utilizzati in lavori di pubblica utilità gratuiti e su base volontaria. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Via libera definitivo dal Senato alla conversione del decreto sicurezza. Tra le novità, il DASPO urbano e le norme contro i riders. Un provvedimento che passa con il voto di fiducia, quello che punta a migliorare la sicurezza urbana. 141 sì, 97 no e 2 astenuti. Mancano all'appello 5 senatori del PD. Ruolo chiave nell'adozione delle misure previste dalla legge è quello dei sindaci, che avranno la competenza nell'adottare o meno alcuni provvedimenti. I proventi delle sanzioni sono destinati ad interventi di recupero del degrado. Arriva quindi una sorta di mini DASPO urbano per chi viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza, esercita il commercio abusivo, l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo. È prevista la possibilità di arresto in flagranza differita. Giro di vita a discrezione dei sindaci su bevande alcoliche, immobili occupati, writers, zone di spaccio. Per la tutela della sicurezza nelle grandi aree urbane nasce il Comitato Metropolitano. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Sollecitato sul tema della riforma della legittima difesa, il ministro della Giustizia Orlando ha ammesso che l'intervento normativo sulla legittima difesa può contribuire a restituire maggiore fiducia ai cittadini nella sicurezza, ma, ha aggiunto Orlando, la potestà punitiva appartiene solo allo Stato. Sentiamo. Il governo parteciperà attivamente ai lavori dell'Aula, proprio al fine di soddisfare al meglio, con un meditato e ben calibrato intervento normativo, l'esigenza di tutela dei beni interessati. Intendo tuttavia ribadire anche in questa sede che la potestà punitiva appartiene esclusivamente allo Stato, che deve garantire le misure più idonee a salvaguardare la sicurezza della collettività, anche al fine di scongiurare il dilagare di forme di giustizia privata. E sulla sicurezza nel nostro paese una nuova puntata del nostro viaggio, appunto, di Radio 24, dopo aver parlato ieri del dibattito intorno alla legge che dovrebbe essere licenziata, che è stata licenziata oggi dalla Commissione Giustizia della Camera, oggi ci siamo occupati di porto d'armi. A Milano c'è stato un boom di richieste anche bocciate. La paura arma le case degli italiani, che per questo però all'improvviso sono diventati tutti cacciatori e appassionati di tiro a volo. Sono i numeri del Viminale a dirlo. Negli ultimi anni sono aumentate le concessioni di porto d'armi. Al momento sono 1.063.537 gli italiani che legittimamente hanno almeno una pistola o un fucile. Il boom si è registrato soprattutto in provincia nel 2015, quando, anche per una norma più stringente, in tanti hanno denunciato il possesso di un'arma. Poi c'è stata una leggera flessione, ma poiché non è così facile ottenere una licenza per difesa personale concessa a 18.077 italiani, l'escamotage è il porto d'armi per uso venatorio o sportivo, salito in percentuale negli anni scorsi del 12 e 18%, per poi scendere. Rendere più stringenti le norme e aumentare i controlli è la richiesta dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere, che ha calcolato già in 15, dice Giorgio Beretta, le persone uccise da gente con regolare porto d'armi. La licenza per tiro sportivo e per caccia vale 6 anni, permette di detenere 3 armi comuni, 6 armi di tiro sportivo e un numero illimitato di armi da caccia. Di un giovane universitario, il giorno dopo che ha ottenuto questa licenza, ha comprato una pistola e ha sparato all'ex fidanzata. Anche se ogni arma viene immatricolata, molto più difficile avere il quadro di quante ne circolino. Di sicuro la produzione fiorente nel bresciano è rivolta soprattutto all'estero. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E la nuova puntata del viaggio di Radio 24 sarà domattina nel giornale radio delle 7. Una piccola imbarcazione, poco più che una zattera, è sparita da un paio di giorni nei luoghi in cui si concentrano le ricerche del serbo indagato per gli omicidi di Budrio e Porto Maggiore. La barchetta era usata da un contadino per spostarsi nei canali dell'area, ma non si può escludere che sia stata presa proprio dal ricercato. E ora l'inchiesta Consip sull'ipotesi di corruzione alla centrale degli appalti è scontro tra le procure di Roma e Napoli. Sentiamo perché. All'indomani dell'accusa della Procura di Roma di falso ideologico nei confronti del capitano della NOE Giampaolo Scarfato, che avrebbe alterato l'intercettazione di Tiziano Renzi, e la decisione della Procura di Napoli di ribadire piena fiducia nell'operato del NOE, confermando la delega per il filone investigativo che coinvolge l'imprenditore Romeo in alcuni appalti in Campania, c'è chi va oltre la considerazione sullo scontro tra procure e chiede sul caso l'apertura di una pratica al CSE. La richiesta è del consigliere laico di Forza Italia Pierantonio Zanettin. Da Napoli è il procuratore facente funzione Nunzio Fragliasso, che esclude categoricamente che vi sia alcun contrasto o alcuna tensione con la Procura di Roma, sottolineando la sintonia istituzionale con il procuratore Pignatone. Intanto sembra non sia ancora tempo di ispettori. Adesso c'è da capire la dinamica dei fatti, secondo il ministro della Giustizia Orlando. Laura Vigiano, Radio 24. Sulle 24 ore Napoli. E sul caso Consip ha parlato questa sera Matteo Renzi a 8:30. Se c'è stata una falsificazione di prove è una cosa grave, ma non vivo di complotti. Sentiamo cosa ha detto Matteo Renzi. Dal mio punto di vista, siccome ora sono un privato cittadino, ma ho servito il paese come presidente del Consiglio, per me la priorità è dire che ho fiducia nella magistratura, ho fiducia nelle istituzioni, credo nell'arma dei carabinieri e non faccio polemiche. Ma se c'è stata una falsificazione di prove, evidentemente è una cosa grave. Credo però che... Ed evidentemente, mi scusi, mi viene da aggiungere, c'è un mandante, perché non credo che questo carabiniere non di sua sponte mai uno abbia di quelli deciso che di falsificare vive di un'intercettazione telefonica. Dottoressa Gruber, io non sarò mai uno di quelli che vive di complotti. Sono le 21:16 minuti, quindi con un pochino di ritardo diamo la linea alla viabilità, poi apriremo una lunga pagina di esteri qui a Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Incontro Tillerson-Lavrov, rapporti Stati Uniti e Russia ai minimi, Trump accusa Putin, sostiene il diavolo. L'attacco all'autobus del Borussia Dortmund è terrorismo, dicono gli investigatori tedeschi, arrestato un 25enne iracheno presunto islamista. Riforme fiscali, il governo punta sul taglio del cuneo fiscale, sparisce la riduzione dell'IRPEF. Di Maio, 40% di criminali romeni importati in Italia, ambasciata e associazioni contro di lui. Intanto vi ricordo che ci sono dei numeri per tenerci compagnia con Effetto Notte, sempre con me Marta Cagnola per questa sera e anche per domani sera, poi tornerà come di consueto Roberta Giordano. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS e per i vostri WhatsApp, se volete dirci qualcosa sulle notizie della giornata che insomma stiamo cercando un po' di capire nella conclusione, appunto, verso la notte, con questo effetto notte. Allora, molto importante, in particolare, questo incontro. Tillerson-Lavrov, i rapporti Stati Uniti e Russia ai minimi. Intanto, per cercare di capire quello che ha detto in particolare Sergei Lavrov e ancora prima Putin, che hanno sottolineato come questi rapporti siano ai minimi, ma forse c'è ancora uno spiraglio per capire come migliorare. Ci colleghiamo con la collega del Sole 24 Ore, Antonella Scott. Ciao Antonella. Buonasera. Antonella, intanto grazie, perché potete immaginare come in questo momento al quotidiano si stia lavorando alacremente per chiudere le pagine. C'è appena stata la conferenza stampa. Esatto. Lavrov, Tillerson, quindi stiamo cogliendo Antonella mentre sta ovviamente chiudendo un pezzo molto importante che leggerete domattina sul Sole 24 Ore. Antonella, tu come hai visto, secondo te cosa è venuto fuori da questa conferenza stampa? Ma a me sembra comunque una giornata importante e in qualche modo positiva, forse proprio perché le aspettative erano così basse, come hai detto. Come hanno detto anche i due protagonisti, Tillerson e Lavrov, già solo il fatto che non fosse assolutamente scontato, ma che poi alla fine Putin ha ricevuto, ha accettato di ricevere Tillerson, che aveva parlato per 5 ore con Lavrov, quindi avevano registrato qualcosa, avevano qualcosa in mano da poter portare al presidente russo. Quindi anche questo io credo che sia anche solo un segnale importante, visto che comunque sono due paesi che escono da venerdì scorso, avevano rischiato di addirittura scontrarsi quando c'è stato l'attacco missilistico su una base americana, su una base siriana in cui c'erano i russi. Quindi anche se è chiaro poi da quello che si sono detti poi in conferenza stampa sul destino di Assad, che poi è il vero nodo che li divide, sono ancora distanti, come ha detto Tillerson, l'americano ha detto due potenze nucleari, le due principali potenze nucleari al mondo non si possono permettere di avere questo tipo di relazioni a un livello così basso, e quindi da qui la constatazione che non si può non riprovare a ricominciare a ripartire, anche magari dalle piccole cose su cui ci può essere un minimo di intesa, come ricostituire quei canali di comunicazione che in Siria, per cui si scambiano le informazioni tra le due aviazioni in modo da evitare incidenti in cielo. Ecco, questo è un memorandum che era stato sospeso dai russi dopo l'attacco di venerdì scorso degli americani. Putin ha fatto sapere che lo vuole ricostituire. Poi ci sarà un gruppo di lavoro di esperti in cui appunto affrontare tutto quello su cui Russia e Stati Uniti sono distanti. Ecco, come ha detto forse a conclusione della giornata Lavrov, il tempo che abbiamo passato insieme non è stato invano. E ora ci copriamo meglio. Questa cosa è buona per tutti. Insomma, ti chiedo solo un'ultima cosa, visto che tu sei la più fine conoscitrice di affari russi al Sole 24 Ore, e non solo, perché veramente Antonella Scott è bravissima. Antonella, questa affermazione in Siria la Russia non punta né su Assad né su chiunque altro, tu come l'hai letta? Dunque, appunto, sono da leggere come cose che dichiarazioni che poi bisogna andare a vedere. Allora, da una parte Putin non può assolutamente permettersi per ora di abbandonare, di scaricare Assad, anche se si dice che in realtà sia molto arrabbiato, sia furibondo, perché con questo attacco chimico, che comunque i russi all'apparenza continuano a ripetere, non ci sono le prove sufficienti per inchiodare le responsabilità di Assad, però insomma si capisce anche che è una posizione un po' poco sostenibile. E poiché Putin era stato lui essere garante dello smantellamento degli arsenali chimici di Assad, in realtà in questo modo ha fatto una figura anche abbastanza umiliato da Assad davanti al mondo, quando Assad ha fatto vedere che invece queste armi chimiche ancora qualcosa comunque aveva. Ora, quello che veramente i russi pensano su Assad è veramente il nodo della questione, ed è molto difficile da capire, perché le posizioni apertamente non possono scaricare l'alleato che hanno, e che è quello che gli garantisce alla Russia il ruolo che adesso la Russia ha recuperato in Medio Oriente. Forse sarà ancora più interessante vedere venerdì Mosca ha convocato i ministri degli esteri di Iran e di Siria, e dato che poi l'Iran ha una probabilmente il vero burattinaio della questione, sarà molto interessante vedere come va a finire questo incontro. Grazie, grazie Antonella Scott. Come si dice in questi casi, fila a scrivere, sennò domattina non ti leggiamo. Buon lavoro. Mi sfidano qua. Esatto. Grazie mille Antonella, buon lavoro. Grazie. Allora, intanto andiamo a sentire le parole proprio di Rex Tillerson. We frankly discuss the current state of US-Russia relations. I express the view that the current state of US-Russia relations is at a low point. At a low point, a un punto bassissimo, lo stato presente di relazioni tra Russia e Stati Uniti. Stavo leggendo un WhatsApp che è arrivato in questo momento al 349-238-6666, Gianfranco, che dice: siamo a posto, abbiamo come presidente degli Stati Uniti un mezzo matto. Allora, che sia mezzo matto non lo so, che sia difficile capire dove in questo momento vuole andare a parare Donald Trump, dopo che per settimane, se non per mesi, abbiamo detto Donald Trump ci mette tutti nelle mani di Putin. Dobbiamo capire un po' a questo punto dove sta andando la politica estera degli Stati Uniti. Allora, mi collego subito con Gianluca Di Tommaso, @GDTom su Twitter. Lui ha un fantastico podcast che si chiama US Insider insieme a Davide Burani. Spesso li sentite ospiti al nostro RadioTube, mia solita collocazione del sabato pomeriggio. Gianluca, eccoti. Buonasera. Allora, Marta, buonasera Gianluca. Allora, io immagino che in tanti ti facciano questa domanda: ma allora abbiamo mezzo matto come presidente degli Stati Uniti? Aiutaci a capire a questo punto delle relazioni di Donald Trump con la Russia, cosa dobbiamo capire? Allora, non solo cerchiamo di capire Donald Trump, ma bisogna capire un po' tutta la politica estera americana, perché negli ultimi giorni è un po' una domanda che siamo fatti tutti: c'è stato una sorta di cambio radicale. Questo cambio radicale prendiamolo un attimo da lontano per spiegarlo. Allora, probabilmente tutti quanti, forse anche tu, ti ricorderai il caso di Michael Flynn, che era il consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump. Sì. E che si è dimesso dopo solo 3 settimane perché era finito investigato nel caso Russia Trump, appunto, perché aveva sostanzialmente mentito al vicepresidente Mike Pence. Quindi fondamentalmente ha mentito prima all'FBI e poi a Mike Pence, e si è stato costretto a dimettersi. Al suo posto Donald Trump ha chiamato come consigliere per la sicurezza nazionale il generale H.R. McMaster. Mm-hmm. Questo generale ha dato un cambio molto importante all'interno del Consiglio per la sicurezza nazionale, che è l'organo principale, che è solo consultivo, ma dentro il quale si prendono le decisioni di politica estera, soprattutto di indirizzo. Il generale è un personaggio che arriva dalla guerra in Iraq, è stato premiato dal generale Petraeus, ha tutta una carriera militare molto molto importante. Il consiglio è un organo consultivo, come dicevo, un gabinetto di vari segretari, ma poi comunque è quello che dove si prendono le decisioni. Prima, il primo cambiamento è stato il tirar fuori con un ordine esecutivo, scusate, con un memorandum del presidente Trump, Stephen Bannon. Stephen Bannon, che sappiamo essere, come dire, definito l'ideologo di Trump, era stato inserito da Trump subito dopo il suo insediamento all'interno del Consiglio di Sicurezza Nazionale, E questo aveva già fatto molto scalpore. Infatti, quando è uscita la notizia, tutti hanno detto è determinante, perché fa capire molte cose. Esatto, perché giocava fondamentalmente il suo ruolo di peso, lo faceva valere all'interno del Consiglio di Sicurezza Nazionale, ma era una nomina politica. È stato estromesso la scorsa settimana. E poi altra notizia che è arrivata, un'altra persona che è Katie McFarland, che è un'altra consigliera, era la vice consigliera per la sicurezza nazionale, era la vice di Michael Flynn, è stato affidato l'incarico come ambasciatore a Singapore. Diciamo che c'è stato si è cambiato radicalmente con McMaster, il consigliere di sicurezza nazionale, e quindi è cambiata anche la posizione sulla Siria e di conseguenza sulla Russia. Ovviamente questo l'ho preso un po' da lontana per andare a spiegare che il caso poi dell'attacco delle armi chimiche è stato determinante per dare il segnale più evidente verso l'esterno di questo cambiamento. E soprattutto c'è un'altra cosa importante per capire come funzionano un po' le dinamiche all'interno della West Wing e all'interno del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Subito dopo l'attacco americano in Siria, nella Situation Room che era stata improvvisata nella tenuta in Florida di Trump, cioè è stata diffusa direttamente dalla Casa Bianca una foto. E in questa foto c'è un tavolo con a capo Donald Trump, e intorno al tavolo ci sono delle persone, alla sua sinistra c'è Tillerson, c'è Jared Kushner, il suo fidato, consigliere genero, c'è il generale McMaster, c'è il capo dello staff, e soprattutto un'altra cosa molto importante, altri vari generali, altre importanti personalità, ma soprattutto ci sono fuori dal tavolo e messi dietro, ci sono Steve Bannon, il vice di Steve Bannon, e quindi questo fa capire esattamente una sorta di, nell'immaginario, come dire, iconografico, soprattutto a livello comunicativo, il fatto di aver diffuso questa immagine fa esattamente capire come si siano andati a modificare gli equilibri di potere all'interno della Casa Bianca. Quindi squadra diversa, atteggiamento diverso, quindi è proprio cambiato l'atteggiamento. È cambiato assolutamente l'atteggiamento, come dire, si può dire che McMaster ha dato una sorta di normalizzazione alla politica estera americana e si è andati verso una direzione più normale, appunto, che è una direzione verso la quale che aveva anche gli Stati Uniti sotto la presenza di Barack Obama, che ovviamente mentre combattevano fondamentalmente Assad, lo combattevano dando un debole aiuto a livello militare ai ribelli siriani, ma li aiutavano molto, lo spingevano molto a livello diplomatico. Qui ovviamente si è tornati a quella strategia, si è cambiato moltissimo rispetto a quello che aveva detto Trump fino a 10 giorni fa o due settimane fa, 3 settimane fa, cioè la vicinanza a Putin l'aveva elogiato pubblicamente. Certo, siamo rimasti abbastanza stupiti di questo cambiamento, in effetti. Cambiamento radicale. Ovviamente, come diceva la tua collega del Sole 24 Ore poco fa, Putin non può mostrare in alcun modo verso anche la sua opinione pubblica di scaricare istantaneamente Assad, perché, come dire, ci si è giocato la faccia in tutto e per tutto dal 2013 ad oggi, man mano crescendo. E c'è un altro ruolo molto importante che non deve essere sottovalutato, è quello dell'Iran. Essendo l'Iran giocando l'Iran un ruolo importante nell'alleanza Russia-Siria, nel supportare Assad, e soprattutto ricordiamo che c'è in ballo un accordo sul nucleare tra gli Stati Uniti e l'Iran, che finora non è ancora uscito fuori, diciamo, nel dibattito, ma che tra un po' riuscirà fuori. Quindi è lì che dobbiamo poi vigilare. Quell'accordo, Trump si è scagliato tante volte contro quell'accordo, ma per esempio una persona che in questa partita, proprio di questi giorni, è rimasta molto fuori è il segretario della difesa Mattis. Lui invece è fortemente favorevole che quell'accordo resti in vigore. È ancora tutto da capire, ma c'è ancora tanto da osservare e da analizzare nel capire i vari movimenti. Grazie a Gianluca Di Tommaso, chiocciola G Di Tom, il suo podcast US Insider è veramente prezioso per cercare di capire cosa sta succedendo da quella parte del mondo. Mi dispiace che arrivino al 349-238-6666 i soliti messaggi, siete servitori di quello che interessa, complotti, non complotti, stiamo cercando di capire quali sono le posizioni di Stati Uniti e Russia, non siamo andati a fare fanta bombardamenti di nessun tipo. Grazie Gianluca. Io ho in linea Dario Ricci, vedo dal computer. Dario, abbi solo un attimo di pazienza perché siccome era molto complesso questo argomento, diamo una brevissima pausa e poi ci aggiorniamo sul calcio. So che Dario è paziente, tra un attimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Incontro Tillerson-Lavrov, rapporti Stati Uniti-Russia ai minimi, Trump accusa Putin, sostiene il diavolo. L'attacco all'autobus del Borussia Dortmund è terrorismo, dicono gli investigatori tedeschi, arrestato un 25enne iracheno presunto islamista. Riforme fiscali, il governo punta sul taglio del cuneo fiscale, sparisce la riduzione dell'IRPEF. Di Maio, 40% dei criminali romeni importati in Italia, ambasciate e associazioni contro di lui. Allora, mi picchierà Dario Ricci e ha ragione perché è stato tantissimo in attesa, ma vogliamo gli aggiornamenti sul calcio, Dario! Eccoci qua, cara Marta, finalmente bene. Innanzitutto la notizia è che possiamo parlare solo di calcio perché a Dortmund si è giocato e al Borussia è andata male perché il Monaco ha vinto per 3-2. Ho letto che forse erano comunque ancora un po' colpiti dalla notizia del giorno precedente, insomma dall'attacco. Assolutamente, possiamo immaginare lo stato psicologico dei gialloneri di casa perché insomma l'episodio è quanto mai grave e sicuramente inquieta anche in prospettiva futura. Fortunatamente poi c'è stata la risposta bella del calcio sano, quella delle tifoserie del Dortmund, è una delle tifoserie più spettacolari d'Europa, questa volta l'ha dimostrato sia ospitando gli sfortunati sostenitori del Monaco che avevano perso partita e conseguente aereo, no? Sulla strada del ritorno, anche oggi la marcia d'avvicinamento allo stadio è stata caratterizzata da feste, balli e brindisi in comune. Poi sul campo hanno vinto i francesi 3-2, ma appunto risultato apertissimo anche l'altro big match che si sta svolgendo in terra di Germania tra Bayern Monaco e Real Madrid. Bavaresi di Carlo Ancelotti in vantaggio per 1-0 grazie al colpo di testa di Vidal al 25esimo. Vidal proprio allo scadere al 45esimo su calcio di rigore ha avuto l'opportunità del raddoppio, rigore che a mio modo di vedere non c'era perché Rizzoli lo ha segnato per un fallo di mano di Carvajal su tiro di Ribéry, ma sembra che il giocatore spagnolo deve il pallone più con la spalla che con il braccio. L'ha messo tutti d'accordo Vidal calciando di fatto al terzo anello dell'Allianz Arena, credo che il pallone a questo punto stia ancora rotolando nei parcheggi dello stadio e sempre per 1-0 in vantaggio invece l'altra squadra di Madrid, l'Atletico Madrid sull'Ester, ex squadra di Claudio Ranieri, ormai lo sappiamo bene, 1-0 per i colchoneros grazie alla rete al 28esimo di Griezmann. Dario, grazie per questi aggiornamenti, ancora scusa per averti lasciato a lungo in attesa, insomma poi tra colleghi in redazione ci permettiamo anche di fare questi scherzetti, grazie Dario, ci aggiorniamo comunque sui risultati delle partite. Allora, adesso andiamo a parlare di politica e già sono arrivati messaggi al 349-238-6666, parlate dei vostri colleghi di Report, la notizia su Consip invece che di Di Maio. No, siccome parliamo di tutto, parliamo anche di quello che ha scritto Luigi Di Maio. L'Italia è un sistema a frontiere aperte, avendo un sistema penale che non è poi così forte con chi commette crimini, rischia di importare criminalità. Qualche tempo fa, qualche anno, ma la situazione non è cambiata, il ministro rumeno degli interni, se non sbaglio, ci comunicò che di tutti i mandati di cattura europei che riguardavano cittadini rumeni, il 40% proveniva dall'Italia. Quindi questo significa che 4 romeni su 10 che avevano deciso di andare a delinquere hanno scelto il nostro paese come luogo nel quale delinquere. Questo è un problema importante che riguarda la giustizia. Allora, questa affermazione del procuratore di Messina, Sebastiano Ardita, che era nei giorni scorsi alla kermesse di Ivrea, proprio commentando queste parole, ha scritto un post: Luigi Di Maio, apriti cielo, un sacco di polemiche. Per capirne di più ci colleghiamo con una collega, una straordinaria collega, un'amatissima collega della redazione romana di Radio 24, Elisabetta Fiorito. Ciao Elisabetta. Ciao Marta, buonasera a tutti. Buonasera, grazie per questa telefonata serale. Invece di goderti il tuo meritato riposo, ti ho costretta a prolungare il lavoro per farci una chiacchierata a effetto notte, ma così mi aiuti a capirne di più. Poi ti dico che idee mi sono fatta io, ma raccontami un po' cosa è successo. Allora, un conto è un procuratore che parla, sta parlando a un convegno, dice ci sono questi dati, sono preoccupanti, va bene. Altra cosa è un politico che fa un post su Facebook e dice: ah, allora i romeni vengono qui a delinquere. È sembrato un post populista, xenofobo, che cerca di sottrarre un po' i voti alla Lega. Luigi Di Maio oggi è intervenuto al TG3, però molto brevemente ha ribadito: ah, ma questi sono i dati, ce l'ha dati il ministro della giustizia romeno nel 2009, però insomma è sembrata una gaffa. Ci sono 1.300.000 romeni che vivono nel nostro paese, che guadagnano da vivere onestamente, che lavorano facendo dei lavori che molto spesso gli italiani non vogliono fare, e che sono grandi lavoratori. Guarda, personalmente ne conosco parecchi e devo dire gran belle persone. Dire che il 40% di coloro che delinquono vengono in Italia è stato visto dalla comunità romena come un'accusa a tutti loro, che rappresentano il 22,6% degli stranieri che vivono nel nostro paese. Quindi insomma una gaffa politica non indifferente, a meno che Ma non è che Di Maio non è riuscito, te la butto lì, a esprimersi? Perché quando poi lui ha detto, aspetta che trovo il foglio perché io non sono abituata ad avere così tante scalette. Allora, lui ha scritto: impariamo dai romeni, scoraggiano i delinquenti e attirano le imprese. Cioè non è che era un post contro gli italiani e non contro i romeni, che noi non siamo in grado di... Non lo so, io magari allora, non è riuscito a esprimersi. No, lui ha detto magnifica Unione Europea, no? La Romania è nell'Unione Europea ed è fuori però dall'euro. Ora ovviamente ci sono imprenditori italiani che possono decidere di andare a investire in Romania perché costa di meno la manodopera, però ricordiamoci che possono anche andare in Cina, come è successo in Bangladesh, no? E dire questa cosa è sempre un'accusa all'Unione Europea, che è quella che ci mette i vincoli, che è quella che ci soffoca. Insomma, è stata da parte di un politico, io faccio qui un distinguo, il procuratore parla di dati, è vero, anche Di Maio riprende gli stessi dati, però detta da un procuratore, lui sta facendo le sue indagini e va bene così, poi li dobbiamo andare pure a vedere questi dati, detta da un politico, purtroppo questo che deve capire il vicepresidente della Camera e candidato premier in pectore del Movimento 5 Stelle può assumere dei contorni xenofobi, e bisogna stare molto attento perché il crinale è molto sottile e il razzismo non ha confini, non ha barriere paradossalmente, quindi per un politico bisogna sempre tenere i piedi per terra e dire aspetta un attimo, ci penso due secondi. Ecco, quello che molto spesso avviene nel Movimento 5 Stelle, e purtroppo Luigi Di Maio fa molte cose buone, ma un po' di figuracce l'ha fatte, Pinochet che era venezuelano, la qualche gaffa l'ha fatta del cancro, insomma, forse c'è un po' di difficoltà in questo momento, perché il caso Consip contro Tiziano Renzi, il padre dell'ex Presidente del Consiglio, si è rivelato un'arma a doppio taglio con queste dichiarazioni dubbie del carabiniere Scafarto. Il DEF ha approvato per la lotta alla povertà 1,2 miliardi nel 2017 e quindi insomma 1,7 nel 2018, che è un po' il reddito di cittadinanza che volevano i 5 Stelle, che si chiama in modo diverso, no? Ecco, forse c'è un pochino di difficoltà, la Raggi non decolla a Roma, anzi Roma è un disastro, l'immondizia è dappertutto, e poi c'è un po' di imperizia e inesperienza politica, questo è, e fare comunque anche l'occhietto e dire vabbè, vediamo un attimo se a destra possiamo prendere un pochino più di voti. Ah, tu ci vedi questa malizia qua, non so, beh, non abbiamo detto sì. Tutti che vogliono un po' sottrarre i voti alla Lega, o alcuni ancora più iper super complottisti del futuro vedono un invece strizzare l'occhio alla Lega in vista di un'alleanza futura qualora il Movimento 5 Stelle dovesse vincere le elezioni, poi dover fare un governo, quindi dover accordarsi con qualcuno per formare una maggioranza parlamentare. Ecco, quindi siccome si parla tanto, loro lo negano, di questa possibile alleanza Movimento 5 Stelle Lega, questo è quello che si sussurra in transatlantico. Devo dire che Luigi Di Maio oggi è scappato dalle nostre domande, però poi è intervenuto al TG3, quindi comunque lui ha ribadito la sua linea, si è spiegato. Però ricordiamo, un conto sono i dati da un magistrato, un conto sono i dati anche ripresi da quelli di un magistrato e da un politico, hanno un'impressione un po' diversa. Assumono un significato politico. Io ho perfettamente capito, e adesso mi leggo anche con calma tutti i messaggi di insulti che sono arrivati, perché su queste cose non c'è mai serenità. Posso dire una cosa, Marta? Assicuro i radioascoltatori di Radio 24 che tu poi mi chiamerai un'altra volta sul PD e io avrò gli insulti. Mi ricordo, esatto, una bellissima trasmissione in cui io feci, no, sai, quelle trasmissioni estive che facevo a Radio 24, feci tipo la prima mezz'ora sul PD e mi accusarono di essere una serva così, del è così, PD. È così. Guarda, questa Fiorito attacca i 5 Stelle senza tregua. Del 5 Stelle. E mi accusano di essere la serva del 5 Stelle. Addirittura voglio dire, bellissimo, su Twitter, per chiudere, ho intervistato Luigi Di Maio molto alto, una volta l'ho intervistato sulle pensioni d'oro, un fan del PD mi ha detto che io ero assolutamente una giornalista che non si poteva sentire perché avevo intervistato Di Maio senza contraddittorio. Allora, quindi stiamo dando la viabilità talmente in ritardo che mi sento quasi Oscar Giannino. Betta, un abbraccio! Un abbraccio, ciao! Traffico tra poco. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Incontro Tillerson-Lavrov, rapporti Stati Uniti-Russia ai minimi, Trump accusa Putin, sostiene il diavolo. L'attacco all'autobus del Borussia Dortmund è terrorismo, dicono gli investigatori tedeschi, arrestato un 25enne iracheno, presunto islamista. Riforme fiscali, il governo punta sul taglio del cuneo, sparisce la riduzione dell'IRPEF. Di Maio, 40% dei criminali romeni importati in Italia, ambasciate associazioni contro di lui. Anche una notizia dell'ultima ora, nuovo veto l'ottavo della Russia sulla Siria. In Consiglio di Sicurezza ONU, Mosca ha bloccato la risoluzione promossa da Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna sull'attacco chimico a Khan Shaykhun. Nel testo, oltre alla richiesta di accesso degli ispettori di Nazioni Unite e OPAC per indagare sull'accaduto, si domandava a Damasco di cooperare pienamente con le due organizzazioni, anche fornendo i dati sui voli aerei del giorno dell'attacco e sulle basi militari. E cambiamo argomento perché sono arrivati tanti di quei messaggi di insulti per la pagina politica. Quando si parla di politica, insomma, niente, meglio parlare di calcio, non lo so, è incredibile. Parliamo di un argomento sereno sul quale non si litiga mai a Radio 24. Oh, finalmente! Mettete via i telefonini, gli smartphone, non mandateci messaggi di insulti, perché parliamo di alimentazione, un argomento su cui a Radio 24 non si litiga mai. Infatti questa sera Giuseppe Crociani, vabbè, lasciamo perdere, cosa ci siamo trovati in studio. Ne parliamo subito con Andrea Ferro. Ciao Andrea! Scusa, avevo la bocca piena. Ah, ecco, vedi, dici dove sei, Andrea, facci venire un po' di invidia. Scherzo. Buonasera da Parma, buonasera da Cibus Connect, questa grande vetrina internazionale per il Made in Italy, che potremmo dire prende davvero per la gola il mondo intero. Una bella immagine per ora davanti a me, questo panorama di chef stellati che cucinavano per conto dei grandi marchi, per così mettere a disposizione dei visitatori, si tratta di visitatori selezionati, di operatori del settore, il meglio della fantasia e dell'originalità in cucina. È un settore che va molto bene, tira 132 miliardi il fatturato, con una crescita del 4,1% rispetto al 2015, e va detto che l'export ha toccato quota 30 miliardi, e per il 2017 le previsioni sono buone, nonostante questa ventata protezionistica agitata da Trump, poi c'è la Brexit incombente, poi la questione delle sanzioni con la Russia, però si respira un tendenziale ottimismo anche alla luce di questi bradisismi, diciamo così, politico internazionali. È una bella manifestazione e propone non solo chef stellati ma anche produttori e produzioni tipiche della nostra tradizione. C'è infatti un presidio di Slow Food con 50 postazioni, 50 produttori di eccellenze particolari, piccoli diciamo così, accanto ai grandi. E poi c'è la questione dell'e-commerce, tra un po' Marta potremo ordinare un piatto di pasta asciutta al dente direttamente a casa, anche se c'è qualche problema al momento per mettere assieme un po' tutti i tasselli di questa operazione, però prima o poi ci arriveremo. La polemica politica c'è, c'è, non anche, possiamo anche, privarcene, no, sì. Certo, infatti io volevo quasi aprire da cronista con quella, ma mi sembrava, diciamo così, fuori menù. Riguarda la questione, come puoi immaginare, di questa campagna pro Agnelli lanciata da Berlusconi. Sì. Renzi ha fatto sapere che lui a Pasqua mangerà carne, dice non ce l'ho con gli animali, semplicemente sono contro le strumentalizzazioni, ma un po' il piatto forte, usando sempre questa metafora, di queste ultime ore riguarda la Presidente della Camera, Laura Boldrini. Ha detto che adotterà ha annunciato di aver già adottato due pecorelle. E c'è stata la reazione del presidente di Assocarni, François Tomei, che ha detto la politica sta strumentalizzando in sostanza il nostro lavoro, e poi ha usato una frase anche piuttosto forte, ha detto, visto che è la seconda carica dello Stato, piuttosto che adottare pecorelle potrebbe adottare due bambini siriani. Accidenti, allora niente, sì, litighiamo sì, anche sì. Sul cibo, sì, sul cibus. Sì. Grazie stasera Andrea. Io mangio, sì. No, e dico cosa posso mangiare, ecco, sì. No, se ti interessa, fettine, appunto, perché così, per sdrammatizzare un attimino, fettine di carpaccio vegetale da mettere nel panino che mangerò, al posto dei salumi, al ragù di quinoa, che è una pianta sudamericana proteica e senza glutine. Buon appetito. Grazie, ciao. Grazie Andrea Ferro, ci hai fatto un po' soffrire, ma noi mangeremo a Pasqua, farà caldo, farà freddo, pioverà, è la domanda che ci facciamo tutti. Quindi, per chiudere questo effetto notte, andiamo da Paolo Corazzon. Paolo, buonasera. Buonasera Marta, e a Pasquetta la grigliata la faremo? Esatto, o no? Ma vegetale o di carne? Esatto, ma l'importante, Paolo. Si griglia o no? Cosa allora, facciamo? Grigliamo? Grigliamo alla grande. Oh. Allora, buonasera a tutti. Però weekend di Pasqua più bello che brutto, anche se la partenza del weekend sarà in parte un po' variabile, perché sabato arriveranno dei temporali al nord, in realtà prenderanno più le regioni di nord-est, quindi il Triveneto e l'Emilia Romagna. Tra pomeriggio e sera vedranno passare questi temporali, questi acquazzoni, ripeto, nella giornata di sabato. Poi alla fine di sabato questi temporali raggiungeranno anche il Levante Ligure, la Toscana e le Marche, praticamente cominciano a spostarsi un po' verso sud. E in effetti il giorno di Pasqua, la domenica, ritroveremo questi temporali al centro-sud, ma soprattutto sul versante adriatico. Quindi la Pasqua in realtà su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e infine anche in Puglia sarà molto variabile, mentre al nord il tempo già migliora, sulle isole sarà bellissimo, sul versante tirrenico, Toscana, Lazio, ampie schiarite. Ma poi la buona notizia è che questi temporali a Pasquetta se ne vanno via definitivamente, quindi Pasquetta bella da nord a sud, tutti in giro, gita fuori porta, grigliate, tutto garantito, si può fare tutto quello che si vuole. Che bella notizia, grazie Paolo Corazzon, ci lasci col sorriso, grazie, grazie, buona Pasqua, buona Pasquette, grigliate. Auguri, grigliate sia vegetali che animali, io sono assolutamente democratica. Adesso vado a leggermi tutti i messaggi che sono arrivati pro e contro Elisabetta Fiorito, che ha creato il panico. Comunque, io intanto ringrazio Cristian Goldoni in redazione, ringrazio Roberta Frisani in regia, fingo di andarmene, no, ma tanto c'è ancora il GR delle 22 e anche il GR delle 23, ma chiudiamo questo Effetto Notte per ora, e l'appuntamento è ancora sempre con me domani sera, domani.